perché non sono uno storico, oggi parleremo anche di un elemento storico, ma io non sono uno storico, mi occupo di filosofia, sono dottore di ricerca di filosofia e mi occupo di critica letteraria, i miei ambiti sono le poetiche, le narrative del Novecento e la filosofia del Rinascimento. Ho incontrato questo argomento di cui ho semplicemente accennato la volta precedente, che oggi in qualche modo approfondiremo, durante le ricerche fatte sul mio libro su Pasolini, che 10-15 anni fa feci questo libro su Pasolini, che aveva anche quello un approccio comunque filosofico. Però trattando di quel periodo, di quell'argomento, di quella poetica, inevitabilmente anche della morte, ho dovuto trattare quelli che sono gli anni tra gli anni 60 e 70, quelli che sono riconducibili, secondo il dizionario, agli anni di piombo, quelli che rientrano nella strategia della tensione. Per cui lì ho approfondito, ho studiato determinate cose che in una narrazione mainstream divulgativa difficilmente vengono raccontate per tantissimi motivi. Comunque, per farvi un quadro della situazione, spero il più possibile chiaro, abbiamo poco tempo, cercherò di concentrarmi su un unico argomento, che è esattamente la relazione tra Pasolini e la strategia della tensione. Quindi non potrò fare ovviamente un'analisi dell'opera pasoliniana, non è questo il nostro intento, mi limito a dire semplicemente alcune cose su Pasolini, che è un autore sicuramente molto più citato che letto. Lo citano spessissimo, lo tirano a destra e a sinistra, ma pochi hanno affrontato veramente quell'opera, che comunque è un'opera di un certo tipo di complessità, anche perché è un poeta, principalmente un poeta, ma è anche uno scrittore, un regista, un uomo teatrale e anche in ultimo anche un giornalista. Ovviamente, in mezzo a tutta questa grande quantità di opera letteraria, non solo, non tutto è fruibile e godibile allo stesso tempo, nel senso, anche per il mio gusto personale, io preferisco molto di più altri autori, per esempio Calvino, mi interessa molto di più. Però ci sono due cose in Pasolini che sono uniche, che mi hanno sempre interessato e che me lo rendono comunque molto caro. La prima cosa è che Pasolini ci mette il corpo, cosa che uno scrittore raramente fa. Di solito uno scrittore, piuttosto uno scrittore ovviamente intellettuale, invece Pasolini usa tantissimo il suo corpo, sia perché è presente a livello biografico in tutte le sue opere, sia anche perché parecchi testi prevedono le fotografie. In Petrolio lui ha fatto del servizio fotografico di Petriali, dove ci sono una cinquantina di scatti con lui lungo. Divina Mimesis pure è presente, sono tante delle fotografie. Nei film che fa, soprattutto negli ultimi, lui si ritaglia delle piccole parti come il cameo, nel Decameron, il personaggio, in Chasseur, anche credo che faccia il narratore, quindi è presentissimo, il suo corpo e la sua voce è costantemente presente. E ovviamente è presente soprattutto nel momento di quella tipologia di morte, perché il corpo di Pasolini, morto, quelle immagini straziate, pieno di sangue, se andate a vedere i effetti sono impressionanti, quello che ha subito quella persona lì in quella serata. Quella morte, quel corpo così, è proprio l'emblema di un corpo che esce dalla strategia della tensione. Sembra un corpo uscito dalla stazione di Bologna dopo l'esplosione della bomba. Invece è stato massacrato di volte nel 75 ad Ostia. Però se vedete le immagini sono identiche alle tante immagini che noi abbiamo visto dei corpi massacrati dalle esplosioni delle bombe. Per questo c'è una relazione molto stretta con questo contesto storico, e non solo, adesso lo capiremo anche meglio. Un'altra cosa che mi rende caro, che è unico in Pasolini, che non si vede mai negli scrittori, è proprio il fatto che lui a un certo punto, proprio in quegli anni là, alla fine degli anni 60, dal 69, 70, 71, grande successo. Il Decameron è stato un film che ha ottenuto un consenso presso più unanime, e hanno chiesto di fare il secondo, il terzo, il quarto, ma sempre rifiutato. Era un attore conosciutissimo, stava molto spesso, faceva tantissime interviste, era riconosciuto come poeta, come narratore. Aveva trovato, come si dice in gergo, aveva la sua chiave, poteva tranquillamente continuare su quella linea lì, continuare a fare quella tipologia di romanzi, quella tipologia di film. Invece a un certo punto lui fa l'avviura, si chiama proprio scritto un articolo che è l'avviura della trilogia della vita, dove rifiuta i film che ha fatto fino a quel momento, quella trilogia che è De Camero, Chaucer, i racconti di Canterbury, i fiori di famiglia, una notte, lui li rifiuta perché dice che ormai quella sessualità, quell'eros, quei corpi non sono più genuini, è impossibile fare questo tipo di film. Quindi abbiura a tutto quello. Non solo, ma lui abbiura e rinuncia a tutta anche la modalità della sua opera precedente. Lui dice apertamente, lui dice: Non sono più un poeta originale, io non gioco più quel gioco, rifiuta il gioco letterario, la funzione letteraria, il romanzesco, il poetico, e questa è una cosa che non fa nessuno. Io a memoria così penso soltanto a John Searle, che è un filosofo che aveva ipotizzato, è un filosofo della mente, aveva fatto la metafora, quella la mente, il software e il corpo e l'hardware, per definire un po' le potenzialità della mente negli anni 60, poi alla fine degli anni 80-90 sconfessa tutto, dice: no, mi sono sbagliato, non è così. Uno dei pochissimi che fa la critica di tutto è molto bravo. Quindi queste due caratteristiche, la capacità di mettersi completamente in discussione con quello che era accaduto, con quello che aveva fatto, pure essendo un autore di successo, quindi poteva tranquillamente continuare, diciamo così, con quella chiave. E poi il fatto di metterci il corpo, cioè lo mette fino alla fine, c'è un verso che dice: bisogna gettare il corpo nella lotta, e lo farà fino alla fine, come lo fa Giordano Bruno. Sono degli autori a me molto cari, io mi inserisco in una traiettoria, diciamo, che è molto affine a quelli che sono gli aspetti eretici della cultura italiana, e tra le altre cose sono anche quelli più vitali. Cioè proprio si parla di una dorsale eretica che parte da Dante, Giordano Bruno, Campanella, Leopardi, Pasolini, ci sono diversi studi che creano questa condizione. Un'altra cosa che è importante sottolineare nell'opera di Pasolini, e recupero un'immagine cara da Mario Luzzi, poeta, uno dei maggiori poeti del Novecento, che definisce Pasolini il più grande agonista del Novecento. Perché lo definisce agonista? Perché la condizione del poeta nella modernità non è più quella condizione che poteva essere nel Medioevo, nel Rinascimento, anche fino all'Illuminismo, cioè essere un punto di riferimento per la società, essere anche un personaggio importante, anche un diplomatico, anche un uomo di cultura riconosciuto. Quindi essere accolto nelle istituzioni e nel contesto culturale della sua epoca. Tutto questo cambia radicalmente con la modernità. Da Leopardi a Baudelaire in avanti, i poeti non sono più in chiave, in accordo con la società contemporanea, ma sono in un rapporto conflittuale, sono in agone, in relazione agonistica. Baudelaire, quando scrive i fiori del mare, sono 100 poesie, la prima è scritta, diciamo, dall'autore nelle vesti della madre dell'autore. Quindi la madre dell'autore, del poeta, dice: maledetta me, avessi partorito un nido di vivere piuttosto che un poeta. Che è proprio una tragedia essere un poeta, perché ovviamente produce una merce che non è utile, che non è spendibile, la poesia non è utile, è inutile. Per cui in un contesto dove l'economia invece deve produrre grande sviluppo economico e industriale, il poeta fa una merce inconsumabile, diciamo così, è inutile. E questo è un conflitto, è un agone con la società contemporanea. Chi ci entra più di tutti nel Novecento è proprio Pasolini. Per questo Luzzi lo definisce il supremo, il principale agonista. Tutta la sua vita è stato un confronto, un conflitto continuo, un conflitto anche del Partito Comunista, viene espulso dal Partito Comunista. È un cristiano, ma non è cattolico, non è ortodosso, ma è un mito ortodosso, anche se fa uno dei film più belli della cristianità, che non c'è cosa che non c'è, però non è ortodosso. Quindi è espulso, estraneo a qualsiasi istituzione. Quindi queste caratteristiche, che potete tranquillamente andare a riscontrare nella sua opera, sono quelle condizioni, quelle caratteristiche che me lo rendono particolarmente caro. Che succede a un certo punto della sua opera, quello che dicevo, la viura della trilogia della vita, l'aver sconfessato quello che aveva fatto prima? È che nel 69 a Milano viene messa la bomba, quella alla Banca dell'Agricoltura. Il 12 dicembre del 69 esplode questa bomba, dove ci sono, credo, una dozzina di morti e non so quanto feriti. E quella è una ferita molto forte, insomma, nella contemporaneità, negli intellettuali, nella gente comune. Pasolini, il giorno dopo, scrive una poesia che si intitola Patmos, dove lui elenca proprio tutti i nomi delle vittime e immagina che un fascista si sia suicidato essendo il colpevole della strage per i sensi di colpa. Questo è così tanto un esempio che vi porto per far vedere come dal 69 a un certo punto c'è un cambio di rotta drammatico nell'opera, nella letteratura, nel cinema di Pasolini. Perché la strategia della tensione, quello che stava accadendo, comporta, come dire, un senso di responsabilità che lui si assume interamente. Guardate, c'è un piccolo film, un brevissimo film che si chiama Il figlio innocente, che è tratto dalla parabola del Vangelo, una parabola di cui nessuno ha saputo dare un'interpretazione adeguata, perché è semplicemente Gesù che cammina nel giardino, c'è un figo che a settembre non ha messo frutti, e allora Gesù dice: tu sei un peccatore, sei in errore, io ti maledico, e il figo si secca. Nessuno ha saputo dare una interpretazione a questo passo, che è sempre piuttosto enigmatico. Pasolini lo recupera e ci fa un filmato, credo, di 10 minuti, dove si vede Ninetto Davoli che scende via Nazionale, tutto allegro e scansonato, mentre fuma una sigaretta e canticchia, e in sottofondo si vedono tutte le immagini delle tragedie che accadono, quindi le bombe, i morti, anche le invasioni in altri contesti. Il senso di questa parabola e di questo breve filmato, il senso che dà Pasolini, è che in un certo contesto, in un certo momento storico, mentre accadono alcune cose, tu non puoi essere inconsapevole. Tu devi essere consapevole di quello che sta succedendo. La tua innocenza, la tua allegria è responsabile in qualche modo di quello che accade. Quindi lui, nel momento in cui cominciano in Italia a comparire questi eventi stragistici, assume su di sé la responsabilità di voler andare ad indagare quello che sta accadendo. E lui dice: per farmi un po', io non so, io non gioco più con quel gioco là, io adesso faccio un'altra cosa. E la sua opera cambia radicalmente. Lui comincia a parlare di documento, parla più di romanzo. Documento, reportage, articoli, usa abbozzi, ma tutti abbozzi, abbozzo di, progetto di, non esiste più il romanzo, la poesia, no? Non è più una modalità espressiva che ha le potenzialità, le possibilità di poter cogliere quello che sta accadendo. Lui assume il ruolo di giornalista di inchiesta, investigativo. Infatti, subito dopo l'esplosione della bomba, nel 70-71, fa un documentario che si chiama Attacco al potere, dove avevo tipo un'inchiesta giornalistica per magari intervistare il tassista che ha portato il presunto assassino, intervista gli operai, gli spartigiani, fa un lavoro di inchiesta. E comincia a progettare quello che poi sarebbe diventato il suo ultimo romanzo incompiuto, che è Petrolio. E infatti questo romanzo è ovviamente è incompiuto perché lui è morto, ma probabilmente sarebbe rimasto incompiuto come tutte le altre cose, perché non esiste più una forma letteraria capace di spiegare quello che sta accadendo. Anche le poesie cambiano radicalmente, quindi dice io non sono più un poeta, non sono più un poeta originale. Trasumanare e organizzare, che è la sua raccolta di poesie del 71. Nel 71 esce Trasumanare e organizzare di Pasolini, su Sfondamenti invisibili di Mario Luzzi e Satura di Montale. È stato un anno per la poesia eccezionale, perché sono tre opere fondamentali per la poesia italiana del Novecento. Una di queste è Trasumanare e organizzare, dove le poesie si chiamano Abbozzi, progetto di, abbozzo di, progetto di, perché non confidano più nella possibilità della letteratura e della poesia. E comincia ad avere un ruolo nel Corriere della Sera, comincia a scrivere degli articoli per il Corriere della Sera europeo, comincia a denunciare quello che sta accadendo in Italia, perché intanto cominciano a esserci diverse stragi, non solo quella 69, ce ne sono diverse, quella del 73, quella a Milano, dell'Italia, finché a un certo punto, verso il 74, lui scrive quello che probabilmente conoscete tutti quanti, l'articolo più famoso è quello che si intitola Che cos'è questo colpo, ma tutti quanti conoscono come Io so. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno messo le bombe. Io so, ma non ho le prove. Io so i nomi di faccendieri. Ora, questo articolo è estremamente citato, però di solito citano soltanto questa prima parte, l'articolo è un po' più lungo, e le cose più interessanti le dice alla fine. E volevo dire un'altra cosa prima di voler leggervi un passo di questo. Prima però volevo specificare una cosa, nel senso, su Pasolini si dicono tantissime cose. Di solito viene detto sempre è stato un profeta, è riuscito a capire quello che nessuno capiva, è un visionario. Sono tutte sciocchezze queste. Io lo sento spesso in tantissimi autori, perché c'è questa retorica di voler insistere su alcune cose. Pasolini non era per niente un profeta, né un visionario. Come ha detto Enzo Siciliano, Pasolini era solo un uomo estremamente intelligente, che aveva la capacità di vedere quello che stava accadendo. Quello che scrive Pasolini lo scrivono anche altri, ha scritto per esempio Bianciardi, che dice più o meno le stesse cose, e forse le scrive anche meglio, ma anche il giornalista, se non mi ricordo bene, il fondatore della Repubblica, come si chiama? Eugenio Scalfari, qualche Farrazza padrona, dicono le stesse cose che stava dicendo Pasolini, ma tanti altri dicevano quello che diceva Pasolini. Ma Pasolini che dice meglio? Perché Pasolini è un poeta, è uno scrittore, e soprattutto ha un consenso. Quello che dice Pasolini viene accolto pressoché da tutti. Guardate, quando io scrissi il libro su Pasolini, sono andato a vedere tanti documenti, mi sono rivisto anche il telegiornale di quel 2 novembre del 75, il TG2 la sera. Tutto il telegiornale è stato dedicato alla luce di Pasolini. È come se oggi tutto il telegiornale della Rai 1, Rai 2 fosse dedicato, che so, alla morte della regina Elisabetta o di Berlusconi, per dire. Tanto era autorevole e ascoltato quello che lo diceva. E questo era uno dei problemi, uno dei motivi per cui poi verrà ucciso. Pasolini concedeva tantissime interviste in televisione, sui giornali, per cui aveva un ascolto enorme. Per cui quello che diceva Pasolini non era l'unico a dirlo, quello diceva meglio e veniva ascoltato da tutti, da destra, a sinistra. Questa è la forza e l'importanza di Pasolini. Per questo poi dopo quando muore si sente questo enorme vuoto, questo trauma un po' per tutti. Comunque, tornando a quell'articolo là, che è uno di quelli più famosi, lui lì comincia in qualche modo a entrare nella questione della strategia della tensione. Perché lui qui dice, adesso dico brevemente, io sono in uno di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni, assicurato la protezione politica ai vecchi generali, ai giovani neofascisti, ai neonazisti. Comincia a fare queste prove, io queste cose le so perché sono un intellettuale, perché metto insieme fatti distanti e gli do un ordine coerente, ma io le prove non ce l'ho. Sono un intellettuale, sono anche un intellettuale sciolto, libero, ma ci sono altri che sanno quello che so io, altri intellettuali, altri giornalisti, ma non lo dicono. Poi in Italia dice, c'è quello che io reputo un paese pulito all'interno di un paese sporco, che è il Partito Comunista. Anche loro sanno quello che sta accadendo. I dirigenti del Partito Comunista lo sanno, perché non lo dicono? E lui si risponde, dice, ovviamente perché partecipano anche loro al potere, per cui il gioco del potere non gli consente di poter dire quello che sanno. E allora a chi spetta il compito di dire quello che sta accadendo? Se lo assume lui, perché lui comincia a fare veramente il giornalista di inchiesta, il giornalista investigativo. Sulla morte di Pasolini c'è una quantità di sciocchezze. Io dico che c'è proprio un genio a sé, chiamo i pasoliniani, un po' come quando c'è il codice da Vinci che ci fu il genere, no, dei titoli che hanno ispirato il codice da Vinci. Quindi c'è un insieme di pubblicazione dei pasoliniani, molto spesso si soffermano sulla morte, molto spesso c'è una grande quantità di sciocchezze. Il libro migliore fatto da una giornalista di inchiesta è quello Massacro di un poeta di Simone Mazzetti. È lei lì che ricostruisce bene tutto quanto. In realtà ne fa due, però mi limito a citare soltanto uno, perché lei lì dice proprio la sua morte è legata al fatto che lui diventa un giornalista investigativo, comincia a fare un'inchiesta e comincia ad avere delle relazioni, uno scambio epistolare con alcuni terroristi, con Gian Piero Ventura, l'ordinoista, che gli consegna dei documenti su un politico democristiano compromesso in qualche modo, diciamo, con la strategia della tensione. Quindi molto probabilmente le cause della morte vanno ricondotte non tanto al fatto che si dice semplicemente un poeta sconti, nessuno cita un poeta. I poeti non fanno male a nessuno, nel senso del potere, vengono ignorati, nessuno cita il poeta, a differenza di un giornalista di inchiesta viene ucciso, come viene ucciso Vito Pecorelli, come vengono uccisi tanti altri. Dopo l'omicidio Pasolini c'è una scia di omicidi tra giornalisti che hanno fatto anche inchieste, i collaboratori della Fallaci, i testimoni, vengono. Un giornalista di inchiesta viene ucciso, Marco De Mauro. A questo punto però, mentre io faccio questa grande ricerca di questo libro, ecco, mi imbatto da quello che in un certo modo è l'oggetto della discussione di questo incontro di oggi, questo fantomatico convegno del sistema fantomatico, ecco, è realissimo. Il convegno a Roma, Paolo XIII, dell'Istituto Militare Poli, i primi 2, 3, 4 maggio del 65. Io qui dissi, detto più di un'occasione, ma meglio di me l'ha detto Stefano Limiti, una giornalista d'inchiesta bravissima, cioè non possiamo capire quello che è successo in Italia dal 45 in avanti se noi non conosciamo e non prendiamo in considerazione il convegno del 65 al Parco dei Principi a Roma, perché in quel contesto lì vengono stilate proprio le direttive, le strategie operative che vengono definite per la strategia della direzione, cioè come operazione attiva per contrastare il colpo di Stato dei comunisti. E molto brevemente, perché non posso dilungarmi troppo, ma vi ricordo, in Italia dopo il 45 non c'è stato nessun processo, no? Dopo il fascismo noi non abbiamo avuto una polimerica, c'è stata l'amnistia per gli altri, quindi tutti i fascisti sono stati reintegrati nell'esercito, nei partiti politici, nei giornali, nelle editorie, nell'industria, per cui c'è stata, come dire, c'è stata una presenza molto forte, anche se non ufficiale, all'interno della politica, della cultura, dell'industria e dell'editoria italiana. Esatto, c'è stato un, come dire, un folto gruppo di politici, ma anche di giornalisti, di intellettuali, che non si sono riconosciuti nella Costituzione italiana, nella Repubblica della Costituzione italiana. Per cui, pur avendo una Costituzione antifascista, di fatto l'Italia è stata una politica anticomunista, perché la grande paura, il terrore, era che ci potesse essere un'invasione dell'Unione Sovietica e dall'Italia, quindi che si passasse sotto il blocco, sotto il patto di Versailles. E questo basta perché, diciamo, c'è una, quella che qualcuno chiamava la grande bonanza degli anni 50, quella del punto, all'inizio degli anni 60 cominciano a manifestarsi, per esempio, in tutto il mondo, c'è la rivoluzione cubana in Sud America, nel Nord Africa c'è l'Algeria che chiede l'indipendenza dalla Francia. Nell'Indocina, nel sud-est asiatico, comincia a entrare una fase calda, quella che sarà, diventerà poi la guerra del Vietnam, ci sono istanze indipendentistiche, sempre di orientamento comunista ovviamente. Per cui questi eventi, in alcuni personaggi legati all'estrema destra o legati alla destra o al conservatorismo, tutti coloro che, come dicevo prima, non si riconoscevano nella Costituzione italiana, hanno cominciato a temere un'invasione, quindi cominciano ad uscire dal 61 al 64 su diverse riviste, escono delle pubblicazioni, dei pamphlet. Alcuni di questi nomi poi li ritroveremo anche nel convegno del 65. Cominciano a uscire questi articoli, questi pamphlet, dove cominciano a sottolineare che sta accadendo questo a tutto il mondo, adesso ci sarà un'invasione anche in Italia, dobbiamo agire. Cominciano timidamente a presentare alcune modalità per contrastare questa invasione. Uno, Tedeschi, Alberto Tedeschi, giornalista, ma ricordo, ma colpito, perché dice c'è un piano segreto, c'è un'invasione che nessuno sa, nessuno conosce, ma tra poco verremo invasi. E la prima obiezione sarebbe: ma se è segreto nessuno sa, tu come fai ad affermare una cosa del genere? E il tenore di queste pubblicazioni più o meno sono tutte così. Quella più importante è una di Cesare Graziani, che fa un pamphlet di 33 pagine dove comincia a spiegare le cose, a stilare bene un certo tipo di strategia oppositiva, attiva. E poi anche Giannettini. Non mi ricordo bene perché sono tutti personaggi completamente anonimi, a parte Pino Rauli, che conosciamo tutti, e Renato Mieli, che è il padre di Paolo Mieli, giornalista. Gli altri sono tutti personaggi di cui non c'è neanche uno straccio di biografia, sono dei militari, dei giornalisti, degli imprenditori, degli ex socialisti passati poi all'estrema destra, alcuni fondatori di Ordine Nuovo, tutti questi personaggi si ritrovano a maggio del 65 a Parco dei Principi, dove fanno, sapete come funzionano i convegni, no? Questo non è un'accademia, è un istituto militare che ospita questo, questo convegno, è ospitato in questo hotel, dove ci sono 20 relatori, ognuno espone il suo contributo, poi dopo alla fine del convegno ognuno presenta i suoi scritti, il discorso scritto, e viene pubblicato gli atti del convegno, no? Nell'università si fa, normalmente si fa così. Anche questo convegno è stato relazionato, quindi subito dopo c'è una pubblicazione che è stata pubblicata con una casa editrice che si chiama Giovanni Verde, una casa editrice romana di orientamento di destra, che pubblica questo libro non in tante copie, e adesso è introvabile. Io l'ho provato a cercarlo e se lo vendono a 400 euro perché è rarissimo. Però ci sono anche degli stati siti che riportano un po' queste, no, riportano interamente con tutti gli atti del contenuto. Allora io, per darvi dei, come dire, dei contributi un po' più interessanti, sono andato a, me lo sono letto, sono andato a vedere bene di cosa si tratta questo convegno. E oggettivamente, a parte un po' la noia, perché più o meno dicono tutti la stessa cosa, poi sono tutti elaborati, tutti estratti, adesso qualcosa vi leggerò, è completamente privi di scientificità. Nel senso, sono tutti opinioni personali, potrebbero essere dei racconti, dove nessuno presenta dei documenti, dei fatti concreti delle autorità a sostegno di quello che dicono. Sono delle opinioni personali in cui si palesa, si paventa questa imminente invasione e si progettano delle attività contrastive. È un po' come oggi questa tipologia di pubblicazione sarebbe definita pseudoscienza e verrebbe raccolta in quel calderone dove mettono quei ricercatori indipendenti, quei giornalisti che fanno le inchieste sugli alieni che hanno fatto le piramidi. Si definisce pseudoscienza. Però c'è una parte che è molto interessante, perché tutti quanti ci raccontano questa presunta invasione o sono fortemente spaventati da questa invasione, ma ognuno trova le sue sfida, proprio le attività che richiede qualcuno per contrastare questa invasione. Quindi c'è una parte descrittiva del problema e poi c'è una parte costruttiva che dice dobbiamo agire così. Allora, adesso vado a cercare quello un po' più interessante. Intanto Minoraudi nel suo intervento dice bisogna stare attenti a chi sta nella RAI, perché il golpe comunista può cominciare ad attivarsi anche attraverso, per esempio lui dice sceglie un'opera teatrale invece di un'altra, mette in onda una certa commedia invece di un'altra, procede all'indottrinamento, al condizionamento psicologico, all'avvelenamento invisibile delle coscienze. E alla fine dice ecco la tecnica comunista per conquistare lo Stato. Quindi si presentano finale di partita di Samuel Beckett, in pratica c'è imminente un colpo di Stato comunista, non è che stanno rappresentando un grande capolavoro del teatro europeo, secondo mio nato. Ma quello più incisivo è Guido Giannettini, che dopo che ci ha presentato tutta questa ipotesi di grande paura dell'invasione, lui sfila quattro punti per cercare di contrastare l'invasione. Lui dice, parte che cominciano a definirsi termini, guerra non ortodossa, guerra psicologica, guerra controrivoluzionaria, e tra di loro litigano un po' per cercare di capire qual è il termine migliore, per cercare anche di non dare dignità eccessiva al rivoluzionario che sta cercando di prendere il potere. Ma Giannettini dice: per combattere questa guerra l'Occidente doveva al più presto infervorarsi in un'ideologia attiva, lotta dura, difficile, talvolta anche assurda. Poi avanti dice anche che il terrorismo, sia quello indiscriminato sia quello selettivo, da attuarsi tenendo sempre a mente il detto di Pascal, secondo il quale per convertire un incredulo bisogna cominciare con metterlo in ginocchio. Poi parla di colpi bassi, però a un certo punto la parte più interessante, secondo me, indicare poi i diversi principi ai quali doveva rispondere l'azione propagandistica. Questi sono dei miei appunti, quindi sono anche dei ragionamenti miei, ma quello che dice lui è denunciarlo all'opinione pubblica, ce l'ha contro il comunista, il presunto contro il rivoluzionario. Denunciarlo all'opinione pubblica, farlo odiare e disprezzare come un essere che va schiacciato, saturare continuamente di informazioni l'opinione pubblica, in modo da rendere difficile formarsi di voci e dicerie favorevoli alla propaganda avversaria, deformare è importante, quanto più possibile, fatti, situazioni, slogan, simboli dell'avversario, tramutandoli in qualcosa di assurdo, odioso e stupido, seguendo il detto il ridicolo uccide. Per fronteggiare, per svolgere al meglio tali compiti, le operazioni imprescindibili era quella di controinfiltrazione, da condursi principalmente contro i metodi, l'allontanamento della stampa e ogni altro organo. Poi più avanti, gli attori di tale controguerriglia devono essere l'esercito e la polizia, ma anche i gruppi paramilitari tratti dalle popolazioni stesse, che si devono occupare di scompaginare l'organizzazione di guerriglia avversaria attraverso attentati, colpi di mano, agguati, l'eliminazione dei maggiori leader guerriglieri. Mi sa che più o meno quello che volevo sottolineare era questo, sì. O qualche scrematura potrebbe essere stato scritto ieri. Sì, esatto. Esattamente. Ci ricorda ieri. Esatto. Ma la cosa curiosa è che l'ultimo contributo poi dice: data l'emergenza della situazione, è auspicabile un nuovo convegno da qui a breve, da qui a pochi mesi. Dopo maggio 65, quest'altro convegno non si è più fatto. Ma cosa ancora più curiosa, sono sparite anche delle pubblicazioni fatte su riviste che precedevano il convegno. Quindi quei pochi titoli che avevo incrociato, che ti ho detto prima, a quel punto non ne parla più nessuno, perché probabilmente si sono resi conto di aver parlato troppo. Immagino, questa è una mia considerazione. Comunque da lì a breve, 67, 68, soprattutto 69, cominceranno esattamente quelle azioni di contrasto che vengono auspicate in ognuno di questi contributi. Le stragi, mettere le bombe in determinati contesti. Ora, sulla strategia della nazione c'è altro giornale che ha fatto forse un testo più riassuntivo, anche se c'è un certo tipo di... Ma proprio voglio dire una cosa, l'ho dimenticato. In base alle parole che abbiamo letto, no? Dopo aver letto queste cose qui, come va ridicolizzato l'avversario, come va colpito il terrorismo, gli attacchi. Questa è la foto, dopo la potete vedere anche meglio, no? Ha portato 10 anni dopo esattamente a questo. Questo è il corpo di Pasolini che sembra uscito dall'esplosione della bomba, è stato picchiato a sangue, è stato investito. Però quelle parole lì, quei contributi lì, poi dopo sono diventati realtà, drammaticamente realtà. ma anche il fatto che siano uscite. Il codice di procedura era stato cambiato da molto e lì c'era un segreto istruttorio che non abbiamo ancora oggi, quindi anche una parte giuridico, io ho sempre definita giornalistica, ci ha messo del suo oggi, una cosa del genere non potrebbe accadere. Quello è un corpo uscito direttamente dalla strategia della tensione. Ed è un corpo, un poeta, un scrittore, un intellettuale, che a un certo punto smette i panni del poeta, dello scrittore. Lui ha fatto una sua autobiografia in versi, si chiama Bestia da stile, dove lui indossa la maschera di Jan Palach, rivoluzionario polacco. Quindi io in un incontro precedente io ho detto Pasolini smette di essere una bestia da stile. Una signora mi ricordo alla fine. Lei ha detto che Pasolini era un animale da sopra. Io ho detto che smette di essere una bestia da stile perché è un titolo pasoliniano. Non mi permette di chiamarlo bestia, recupero il suo titolo indicativo per far capire che lui non giocava più con le regole della letteratura, era diventato a tutti gli effetti un giornalista d'inchiesta, cosa che aveva sempre fatto. Lui metteva il corpo costantemente, si sottoponeva a condizioni di estremo pericolo. Quando va a New York, lui per capire la realtà newyorkese va da solo di notte nel Bronx. A Roma andava, frequentava i quartieri più malfamati, aveva relazioni con i ragazzi della malavita, con i delinquenti più o meno importanti, perché anche raccoglieva informazioni. Lui dice chiaramente: io ho una vita diurna in cui faccio quello che fanno tutti i miei amici e colleghi come Moravia, da Giammaraini, Elsa, con tutti i suoi amici scrittori. Poi dopo c'è, ma io non dormo, io sto in giro, vado all'inferno e cercare di capire quello che sta accadendo. E quello che ci ha riportato, in parte quello che ci ha riportato, è stata la dinamica di quella strategia della tensione che noi soltanto adesso cominciamo veramente a capire bene, anche se loro avevano tante cose che non state capire. Adesso ci sono state inchieste, processi, testimonianze, documenti, adesso abbiamo chiaro il ruolo della CIA, dei servizi segreti, il ruolo dell'Anello, il servizio segreto che è stato fondato. Stefania Lini ci ha scritto un testo importante su questo. E lui stava cominciando a capire queste cose, le stava raccontando anche attraverso l'ultimo romanzo che stava facendo, che è Petrolio. Scusa, cos'è l'Anello? L'Anello è un servizio segreto nato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, però nel 1945 viene fondato da un ex fascista che prima era stato espatriato, poi è rientrato. E l'Anello sarebbe Anello perché alcuni lo chiamano Anello, altri Noto Servizio, perché viene chiamato anche Noto Servizio, una sorta di formula identificativa, non ha un nome ufficiale. È a tutti gli effetti un servizio segreto parallelo a quello nostro. Anche la formula che usano spesso servizi segreti deviati, che però non è corretto. Uno non si tratta di avere delle deviazioni. Come diceva Kennedy, io sono sicuro di non avere il controllo totale, completo delle forze dell'ordine e dei servizi segreti americani. In Italia ormai è certo dalle testimonianze, dai documenti trovati, che alcuni esponenti del servizio segreto non sono fedeli alla Costituzione italiana, non sono fedeli al Patto Atlantico, alla CIA. Per questo noi non abbiamo, gli storici dicono, noi non abbiamo una memoria condivisa. abbiamo un dato di realtà di quello che è successo in Italia, e non ce l'abbiamo perché in tutti questi eventi criminosi stragistici entrano sistematicamente le dinamiche dei servizi segreti, che sono il depistaggio. Fin dal portella della Ginestra fino alle colombe di qualcuno che servizio c'è sempre la presenza di uno o più personaggi dei servizi segreti che depistano, che cancellano i documenti, e noi non abbiamo una cellula, ma neanche la verità di un singolo evento, anche lontano. Dici, ma perché se sono passati 70 anni, ma a chi può interessare? Cioè, a chi può nuocere sapere la verità? Io sono collegato. Esatto, perché c'è la dinamica identica. Se io capisco, collego un fatto, se io sciolgo quella dinamica, crollano tutte le altre a seguire. Per questo non sappiamo quello che è successo a Portella della Ginestra. Lo sappiamo a grandi linee, ma non abbiamo la certezza. Così non lo sappiamo per la strage di Bologna, per Ustica, per tutto il resto. Perché c'è sempre una volontà di depistare, perché ci sono stati servizi segreti che hanno depistato ogni evento. Comunque, il discorso sarebbe lunghissimo, adesso più o meno io quello che volevo indicarvi lo indico. Se avete domande, possiamo parlare tranquillamente. Non so se volete farle subito, se ascoltiamo le canzoni e poi dopo fare le domande. Non meglio farle subito, no, farle domandate. Pasolini negli anni Ottanta o Pasolini oggi? Che lui cosa aveva sarebbe? Previsto tutto, però. Aveva previsto tutto, non era un profeta, ma aveva previsto tutto. La famosa scena del film Salò, delle mamme che portano le figlie ai gerarchi, è quella, ecco, è la sua previsione esatta di quello. Noi non l'abbiamo capito, però lui l'aveva capito. No, questa cosa me la domandano spesso. Allora, secondo me Pasolini avrebbe anche smesso di fare cinema. Lui avrebbe continuato a fare documentari di inchiesta. Io immaginate una puntata di report fatta da Pasolini che va a intervistare le persone, i sopravvissuti alla strage di Bologna, per esempio, che intervista, come dice lui, con la mia sola voce puerile, come i Comizi d'Amore, no? Se avete visto il film Comizi d'Amore, lui che va in giro a intervistare le persone, lui avrebbe smesso anche di fare cinema, avrebbe fatto documentari di inchiesta e avrebbe cercato di raccontare tutto quello che vedevo, ovviamente. Poi nello specifico, guarda, io penso che noi abbiamo una sorta di controprova quello che dici tu, perché Pasolini muore nel 75, nel 78 viene ucciso Moro, ma subito dopo l'uccisione Moro, Leonardo Sciascia, che ha molti punti in comune con Pasolini, scrive quel libro meraviglioso sull'affare Moro, dove lui parte proprio da Pasolini, utilizza Pasolini per cercare di comprendere quello che è successo con Moro, e non fa un'analisi politica, ma un'analisi letteraria delle lettere di Moro, e ti dice ma hai detto un sacco di stupidaggini, perché Moro non era fuori di sé, era consapevolissimo che sta dicendo tutte le porcherie che avete fatto. Quindi avrebbe fatto un'operazione alla Sciascia costantemente, secondo me, però più come documentarista che non come cineasta o come romanziere. Lui aveva detto io a questo gioco non gioco, che la lettera morale non c'è il petrolio, io a questo gioco non partecipo più, faccio altre cose, faccio documento, petrolio, documento. Chi vuole ha la curiosità di sapere la mia bestiale. Grazie. A voi. Bella festa. Dobbiamo ascoltare delle canzoni tranquille da voi di Andrea. Grazie. che è una storia sbagliata, no? Che è proprio il risultato della morte di Pasolini. Comunque sulla morte di Pasolini, questo mi ha dimenticato. Ovviamente la storia della Velosi, tutta la montatura, quella notte lì c'erano altre due macchine che erano a moto, erano circa una decina di persone, ed erano almeno tre livelli di delinquenza diversa. C'era una delinquenza romana,